Civiltà. Specialità gastronomiche. A. Ascolta il testo. La cucina italiana, che si basa principalmente su ingredienti genuini e piatti semplici, deve la sua raffinatezza ai romani, che consideravano la cucina una vera e propria arte. Sotto Cesare sono entrati in uso i tovaglioli e sotto Domiziano le tovaglie. La letteratura gastronomica in Italia, però, ha la sua fioritura solo verso il XVI secolo, grazie ai cuochi dei principi e dei papi.